Per il Sud il rischio non c'è, non è un problema finanziario nel Sud. Chi dice questo o è in malafede o è poco informato. Nel programma europeo di finanziamento e di sostegno nelle regioni del Sud, programma 2007-2013, sono messe a disposizione del Sud 100 miliardi di euro, ripeto, 100 miliardi di euro. Il problema del Sud, sa qual è? Non è la mancanza di risorse, è riuscire a spenderle. Come non è riuscito a spendere negli anni passati. 100 miliardi di euro sono una cifra colossale che è già a disposizione da oggi.